il mercato è confuso e la cettia io ve li pago entrambi ed or partiam e mi cerai. Al re la bontà del paterna confida il mio saper o dal veleno al mio zelo la gloria di tentar quell'ardito passaggio dove falli finor ben più d'un folle orgoglio. Poi qui già consegnai con insensata mano i miei capite brutti i miei scomi pensieri segni fuori portano via le mie frutti ora appena partire e che voi mi rapite con te io guida ti sarò e la ti condurrò se ti comprende santo ciò se ti comprende santo ciò dei paesi che ho sopra per gran favor il re ti fa governator indora e tutti spreme so la mia squadra sempre ne sta andiamo. Usciam di qui, la vostra mano. A quel dritto! Con quel che a piede l'ara si riceve da Dio. E ti cerai! Thank you.